Radio Cerrano presenta Sportivamente Parlando, un programma ideato e condotto in studio da Federico Di Fabio. Buonasera, buonasera ai nostri gentili radiospettatori e benvenuti alla quarta puntata di Sportivamente Parlando. Allora, io partirei subito con il salutare i nostri ospiti. Saluto il mister del Fontanelle, Mino Bizzarri. Saluto il presidente del Calcio Ati, grazie per essere venuto, Alessandro Italiani. Grazie, buonasera a tutti. Purtroppo per problemi forse del server di Facebook siamo online soltanto sulla piattaforma radiocerrano.net, potete ascoltarci da lì. Purtroppo, come ho già anticipato, abbiamo questo problema e non potremo essere in diretta Facebook. Allora partiamo subito con i fatti. Io vorrei partire la nostra copertina, la vorrei dedicare tutta a Giacomo Mattucci, il ragazzo scomparso la settimana scorsa. Purtroppo ha avuto una malattia forte, molto, molto rara, che purtroppo ha stroncato la sua giovane vita. Lui, ricordiamo, faccio una breve cronistoria, lui è stato fino a 15 anni nelle giovanili dell'Atria Calcio, quindi è cresciuto qui ad Atri. Poi è passato al Chieti, al settore giovanile del Chieti, molto più ambito, era una giovane promessa, Alessandro. Sì. Era un talento sia dentro che fuori al campo, perché magari essere talenti con il pallone tra i piedi può essere facile, ma essere talenti nella vita è un qualcosa di più difficile. Sì, Giacomo era un ragazzo che aveva la passione del calcio. Gli amici lo chiamavano il campione, e lui ha sviluppato le sue doti tecniche qui nel settore giovanile dell'Atria Calcio. Poi, come hai detto tu, è andato a giocare col Chieti, poi il problema è tutto quello che sappiamo. Era un ragazzo bravo sotto tutti i punti di vista. Io personalmente non ho avuto la fortuna di conoscerlo appieno durante la sua breve vita, soltanto nell'ultimo periodo, quando ha collaborato con noi nel settore giovanile facendo da spalla al mister della squadra, giovanissimi e esordienti, Enrico Ciccarelli. Ha collaborato con noi fino a quando ha potuto. Solo in questo ultimo periodo sono riuscito a conoscerlo, a stargli vicino. La testimonianza invece di tutti, anche dei nostri giocatori, so che era un grandissimo amico, anzi forse uno dei migliori, Sebastiano Lolli, che gioca con noi, uno del suo gruppo, della sua età. Tramite appunto queste amicizie sono riuscito a conoscerlo meglio e loro mi hanno trasmesso tutte le doti che aveva, mi hanno fatto conoscere tutte le doti che aveva questo ragazzo. È chiaro che da parte della nostra società, e credo anche da parte di tutto il movimento calcistico atriano, ma non solo, tutta la società civile, credo che il saluto va, l'abbraccio va alla famiglia, al fratello, che ricordo ieri è stato comunque con noi a vedere la partita a Borgo, per testimoniare la vicinanza ai giocatori, agli amici di Giacomo. E quindi il saluto va a loro e non riesco neanche a esprimere con compiutezza tutto quello che provo dentro, perché effettivamente è un momento che ha segnato un po' tutti in questa settimana, prima di Pasqua e anche durante questa settimana siamo ancora tutti scossi. Ieri lo abbiamo ricordato con un minuto di silenzio, con il lutto abbraccio, con delle magliette personalizzate fatte apposta per ricordarlo, ma dirò che sicuramente per noi non rimarrà solo il ricordo di questa domenica, ma cercheremo di fissare nella memoria le gesta di Giacomo con delle iniziative che presto porteremo avanti come ASD Calciovati. Siamo sicuri che Giacomo rimarrà sempre in mezzo a noi, in mezzo allo sport atriano. Io passerei subito con il calcio giocato, partiamo dalla Serie D, leggo velocemente i risultati e poi faremo due piccole battute. Allora, Castelfidardo Vastese 1-2, Campobasso Pineto 1-2, stesso risultato per Fabriano Cerreto e Monticelli, 1-0 per il Francavilla sullo Jesina, 2-1 l'Aquila contro il Matelica, 1-3 Nero Stellati San Giustese, 1-1 tra Olimpia Unionese e Bispesero, 1-4 tra Recanatese e San Marino, 2-2 nel derby San Nicolo Teramo Avezzano Calcio. La classifica comanda il Matenica 65, 64 per il Pesaro, 52 Avezzano, 50 Vastese, 48 L'Aquila e San Marino, 47 Pineto, San Giustese 45, 44 per il Francavilla, 43 per il Castelfidardo, 37 Recanatese, 36 Campobasso, 34 Agnonese, 31 San Nicolò Teramo, Jesina 30, Monticelli 25, Fabiano Cerreto 19, Nero Stellati 15. Allora io partirei subito con il mister. Il mister ha conosciuto direttamente questa categoria, ricordiamo, ha segnato dalla Serie A alla seconda categoria. Prima ci ha raccontato l'aneddoto, ha sbagliato un rigore soltanto dalla Serie A alla Serie B. No, ho sbagliato un rigore per ogni categoria. Per ogni categoria, sì. Dalla Serie A alla Serie B. E quindi, mister, ci può raccontare un po' se magari lei ha avuto la fortuna di vedere in questi ultimi campionati della Serie B, se è cambiato qualcosa da quando lei giocava ad adesso? Ma guarda, io non prima parlavo con il mister e io credo che non ho seguito molto questo campionato. So che il Pineto ha un'ottima squadra, un'ottima struttura societaria, perché conosco il presidente Brocco. So che ha una rosa valida, so che ha dei bravi giocatori, però se devo essere sincero non conosco bene la categoria, non ho seguito molto. Alessandro, invece magari hai voluto seguire un po' da più vicino il Pineto, anche perché ha molti giovani promettenti di Atri, come Zippilli e Della Quercia. Facci magari un commento su questi talenti adriani che stanno sbocciando della corte pinetese. Beh, parlare di talenti adriani che vanno e giocano a Pineto, per noi, per me personalmente, per un adriano è un orgoglio da una parte, dall'altra è un motivo anche di insoddisfazione, perché evidentemente non siamo riusciti a trattenerli nel corso degli anni con noi, e questo significa che non siamo riusciti a creare quelle condizioni affinché loro rimanessero, significa dire che non siamo riusciti a avere una condizione, una società, una squadra che meriti una categoria che a loro compete. Sicuramente sto seguendo il Pineto perché avremo dei rapporti con loro, abbiamo già dei rapporti, ieri ha vinto il Campobasso all'ultimo minuto con un gol fatto all'ultimo minuto, ma sicuramente ho visto l'immagine, ha meritato la vittoria e sta meritando il campionato che sta facendo, quindi un ottimo lavoro di tutta la società, anche di questi ragazzi adriani che danno il loro apporto alla crescita e allo sviluppo della Quercia, da ricordare che è sbocciato l'anno scorso in rappresentativa, poi ha avuto tante richieste, il Pineto è riuscito a accaparlarselo, essendo suo, ha avuto il coraggio di farlo giocare sin dall'inizio e il ragazzo ha risposto alla grande. Speriamo che, sicuramente quest'anno è stato convocato anche con la rappresentativa di Lega, della Lega Nazionale di Lettani. Sono arrivati ai quarti finali torneo di Viareggio, quindi un ottimo risultato, usciti sconfitti solo dalla Juventus Primavera. Speriamo che Riccardo possa presto calcare categorie superiori. Anche perché magari, lo ricordiamo, nel torneo delle regioni lo scorso anno in rappresentativa c'era tuo fratello Umberto al comando di questa squadra, quindi magari c'è anche un merito suo, se scopre. Sicuramente il talento è da parte di Riccardo. Non mi piace parlare dei meriti o di demeriti delle altre persone. Io reputo che lui era un selezionatore, ha visto quali erano i ragazzi migliori, ha scelto Riccardo. Certo, quel trampolino di lancio, quella vetrina gli è stata offerta, però lui è stato bravo a saperla sfruttare. Io passerei subito al cambio di promozione, così arriviamo forse possiamo dire al triste risultato del Fontanelle di ieri. Allora leggo i risultati del girone A: Mutignano, Colonia 1-3, Fontanelle Morrodoro 2-3, Luco Santomeno 2-1, Virtus Teramo vince a Mociano per 2-1, Notaresco San Gregorio 0-3, 4-2 per il San Gigliese contro il Pucetta, Piano della Lente Celano Marsica 1-1, Rosetana Albamonte Aurei 1-0, Tossicia Ponte Romano 0-1. a Braccetto, a Virtus Teramo, al Ponte Romano in vetta, a quota 67, 57 per il Luco, 54 San Gregorio, 50 per Rosetana e Fontanelle, 49 Colonia, 47 Pucetta, 42 Mociano, 41 Sant'Egidiese, 40 per Pione della Lente e Cerano Marsica, 37 per il Morro d'Oro, 29 Santo Mero insieme a Mutignano, 24 Tossicia, 23 Alba Montaurei, 14 il Notaresco. Allora mister, io partirei subito sulla partita di ieri. Era un derby, quindi molto sentito anche da parte dei tifosi. È andata male, però la classifica sì, si è un po' compromessa, lo possiamo dire, con questa sconfitta. Però diciamo che nei momenti di difficoltà magari si può riuscire meglio, e adesso che non ci sono pressioni magari si può... Guarda, ieri è stata una partita cominciata male, gestita nel modo sbagliato, e non siamo riusciti mai a riaprirla come si deve. Arriviamo da un momento dove tanti giocatori sono stanchi, la Coppa Italia ci ha portato via, abbiamo giocato in settimana la semifinale di Coppa Italia con il Casal Bordino, ci ha portato via tante energie, anche mentali. E credo che domenica si sia visto i problemi che ha veramente in questo momento questa squadra. Siamo stanchi, però la matematica ancora non ci condanna, nel senso che ci sono ancora tre partite, dobbiamo fare 9 punti e dovremmo cercare di farli. 9 punti, poi se gli altri sono più bravi ne faremo 6 o ne faremo 3 o magari non ne faremo nemmeno uno, però ripeto, ci dobbiamo provare fino alla fine, fino a quando la matematica non ci condanna, anche perché è una soddisfazione per noi, una soddisfazione per la società che ha fatto dei sacrifici, anche se, io ripeto, siamo arrivati ad un momento dove siamo stanchi e abbiamo poche energie. E soprattutto abbiamo gente che non riesce più a recuperare, e questo dopo la domenica lo senti. Lei, mister, è abitato in piazze molto calorose, in piazze molto grandi, però una piazza come Fontanelle, che è piccolissima, eppure sta andando da moltissimi anni, quasi 5 anni, sta sempre lì davanti, nel cambiato di promozione, che magari per chi conosce la realtà pensa magari che è un qualcosa troppo, troppo grande per una frazione così piccola. Guarda, Fontanelle è una famiglia, prima di tutto. Ha un gruppo di giocatori che è lì da 5-6 anni, giocano insieme da 5-6 anni. E poi ha un gruppo di dirigenti che sono 4-5 dirigenti, che poi a dir la verità sono di più, però sono, che ne so, Alfredo Giorgini, c'è Antonio, c'è Roberto, c'è il presidente che è Bruno, cioè ci sono questi 4-5, c'è Nicola Pelusi, ci sono questi 4-5 che sono i referenti e che sono sempre lì al campo a... È gente normale, semplice, e forse la forza di questa società qua e di questa squadra è proprio quello, il fatto di poter lavorare in tranquillità, il fatto di non farti mancare niente, perché a Fontanelle non manca niente, cioè la società non ti fa mancare niente, qualsiasi cosa chiedi la fa, e non mette pressione, che questa è una cosa che magari in altre società non si trova, è un paese, è una società tranquilla e serena, cioè non chiedono di vincere il campionato, chiedono di fare un tranquillo campionato, noi ci stiamo provando, speriamo di dargli questa soddisfazione di portare le playoff, visto che non siamo riusciti ad andare in finale in Coppa Italia. Allora Alessandro, io torniamo subito nel Fontanelle, vorrei fare una piccola battuta sulle altre ciminiere. È sempre una realtà piccola come quella del Fontanelle, voi vivete, diciamo, insieme a loro nella stessa casa, in quella del Piccirilli, di Atri. è una piccola realtà che sta facendo bene, sta figurando benissimo il primo campionato di promozione. Quali sono, magari, qual è l'aspetto che squadre più blasonate come lo stesso Calcio Atri, Atria Calcio, Silvi, il Borgo Santa Maria possono riprendere da queste piccole realtà? Guarda, il Trecciminiere sta facendo, come hai detto tu, benissimo. Ieri ha vinto una partita contro la ex prima della classe, che è di una seconda, il Casalbordino, per 4-2, e sta dimostrando di ben figurare, di poter ben figurare in questa categoria. Ha un organico di rispetto, perché io non sono un grosso esperto, in quanto da poco sono entrato nel calcio dilettantistico, però ho capito sin da subito che, al di là di tutto, gruppo, soldi, società, dirigenti, di avere i giocatori di categoria, e se non ne hai almeno 9 o 10 non risolvi niente. Perché? Perché l'esperienza, la capacità di essere in campo, la capacità di risolvere le partite nei momenti difficili, fanno tutte queste cose, fanno la differenza. E se ce l'hai quei giocatori che hanno questo background, questa esperienza, bene. Se non ce l'hai, fatichi. E se fatichi, alla fine del campionato paghi, perché paghi. Il Trecciminiere, oltre ad avere Alfredo Di Marzio, che è un ottimo allenatore, ha anche queste caratteristiche, ovvero di avere dei giocatori di categoria che sanno tenere quel ritmo, e i risultati lo stanno dimostrando. Magari, mister, qualche giocatore in più a questo Fondelle, non dico di qualità ma di quantità, avrebbe fatto sicuramente al caso vostro. Sì, noi siamo ora siamo agli sgoccioli da 2-3 mesi a sta parte, da dicembre. Noi abbiamo avuto dei due brutti infortuni di due ragazzi fuori quota. Li abbiamo persi a dicembre e quindi siamo andati un po' in difficoltà, però io credo che la rosa sia ben allestita. Poi purtroppo durante il campionato ci sono gli incidenti di percorso, e quindi di conseguenza se si rompe un giocatore o se si fa male un giocatore, sta fermo 4, 5, 6 mesi. Non siamo né la Juve né il Real Madrid che puoi permetterti il lusso di prendere un giocatore svincolato per 2 mesi o per 3 mesi. Quindi io credo l'unica cosa che a cui possiamo recriminare sia il fatto che di non avere un settore giovanile, e quindi credo che, a differenza delle altre società, noi potremmo andare un po' in difficoltà sotto quel punto di vista. Mister, io vorrei fare una battuta, una piccola curiosità, vorrei estinguere questa curiosità. Come si vive dentro lo spogliatoio? Lei ha avuto l'anno scorso sia Mario che Alessandro, che sono i suoi figli, e quest'anno soltanto Alessandro, visto che Mario è passato Virtus Teramo. Ma come si vive questo fatto dentro lo spogliatoio? Magari anche gli altri compagni di squadra, se giocano in solare, possono sbuffare un po', dicono questi sono figli del mister, oppure umori del genere? Io ho sempre distinto le due cose: papà e genitore e allenatore. Allora, Mario credo che non abbia bisogno ha dimostrato pienamente che questa categoria la fa benissimo. Anche poco. Per quello, sì, che ha dimostrato. Fatto, sì, fa sempre 15, 16, 20 gol al campionato, quindi non serve che gioca perché il padre lo faceva giocare. E credo che la difficoltà sia più loro, perché io forse sono più contro loro, nel senso che se devo martellare qualcuno, martello più loro che gli altri. Il secondo ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, poi ha fatto l'ho rimesso dentro nelle ultime 4-5 partite, ha fatto 4-5 gol, ha fatto benissimo pure lui. Ora non sta bene fisicamente, quindi è rimasto fuori, però io credo che bisogna essere intelligenti in questo caso qua, quando tu hai un allenatore che è anche il tuo genitore, il tuo padre, devi essere bravo a comportarti in mezzo al campo, devi essere bravo nello spogliatoio, devi essere corretto con gli altri, non ti puoi permettere il lusso di magari di dire vabbè, tanto il papà posso far così. No, loro hanno sono sempre comportati bene, poi le solite battutine. La cosa che non hanno mai fatto è quello che se parlavano male dentro lo spogliatoio non me l'hanno mai detto, quindi pur se io... Quindi un punto quello rimane un punto interrogativo. Quello rimane, sì. Però alla fine ha la fortuna che magari i suoi figli sono competenti e quindi non può prendere, diciamo, insulti, se possiamo comunque fare onore, da altri giocatori. Quindi questo sicuramente non è, nessuno può recriminare qualcosa. No, sicuramente qualcuno l'ha fatto, ma loro non parlano, quindi io provo a spronarli, ma non mi dicono niente. Forse è meglio così. Sì, è sicuramente meglio così. Allora, mister, io prima di congelarla, che visto che ha un impegno e deve andare via, vorrei parlare di questa Coppa Italia, sezione Abruzzo. Siete arrivati in semifinale e... purtroppo per i gol fuori casa siete usciti col Casalbordino, avete vinto 3-2 il ritorno, avete sperato, però purtroppo, come abbiamo detto, i gol fuori casa hanno penalizzato questa squadra. Sì, noi, io devo essere sincero, noi abbiamo fatto due discrete prestazioni, siamo andati lì, abbiamo fatto gol, poi non mi piace parlare degli arbitri, non ne voglio parlare, però dico solo che la partita di Casalbordino Fontanella è stata arbitrata da una terna di Vasto, poi il resto lo dicono gli altri. Il ritorno, noi abbiamo fatto una grossa prestazione, siamo partiti benissimo, abbiamo fatto gol, abbiamo preso il pareggio, questo tutto nel primo tempo, poi siamo tornati in vantaggio alla fine del primo tempo, siamo tornati dentro gli spogliatoi sul 2-1. La cosa a cui posso recriminare i ragazzi è che non dovevamo prendere il secondo gol, perché prendi il secondo gol e ti disintegra mentalmente, perché ne devi fare due in più, sì. E quindi la testa dopo cammina. Ci abbiamo provato fino alla fine, la prestazione è stata alta, non siamo stati fortunati. Ce la potevamo fare, ci dispiace per la società, ci dispiace tanto per la società, per quei tifosi che vengono al campo, ce l'abbiamo messa tutto, ma purtroppo il calcio è così. Quindi mister, prima di congelarla vorrei fare un piccolo commento, visto che siamo qui con il presidente del calcio Atri, io non l'ha visto crescere lui, però il primo gol contro il Casalbordino l'ha fatto Pomponi, lui è Adriano, è un fuoriquota, quindi vorrei un commento su questo giocatore. Andrea ha grosse potenzialità, il problema è che deve essere consapevole lui delle proprie qualità, e caratterialmente bisogna che cambi e aggiusti qualcosina, se no ha grosse qualità tecniche, non è un ragazzo educato, è un ragazzo a posto, è tecnicamente valido, però deve capire che comincia a crescere, deve crescere un po'. Deve fare il salto di qualità. Anche perché anche lui, Alessandro, è stato selezionato la scorsa stagione da tuo fratello Umberto nel torneo delle regioni, quindi sicuramente è uno dei migliori dal punto di vista dilettantistico del nostro panorama. Allora io ringrazio il mister del Fontanella, Mino Bizzarri. Grazie a voi, buonasera a tutti e buon proseguimento. Grazie. Allora invito la regia a mandare uno stacco di musica e ci vediamo per la seconda parte con Alessandro Italiani, che ci parlerà un po' di questa prima categoria. We'll be right back. Eccoci qui con la seconda parte di Sportivamente Parlando. Abbiamo appena avuto mister Mino Bizzarri del Fontanelle che ci ha lasciati per un appuntamento. Siamo qui con Alessandro Italiani. Allora, Alessandro, io partirei sempre andando con la nostra scaletta, partirei con la promozione Girone B. Leggo subito i risultati e poi faccio un piccolo commento sull'unica squadra che è il Real Tre Ciminiere del comprensorio del Cerrano. I risultati: Bucchiani Coraiano 2-1, Casolana Villa 2015 1-1, Fater Val di Sangro 1-2, Fossa Cesia Palombara 2-0, 0-0 Trapasso Cordone Ortona, 0-2 Piazzano Delfino Flacco Porto, 4-2 per i Tre Ciminiere su Casal Bordino, Sportran Celano 0-2 con il Castiglione Valfino, 1-0 per il Sulmona nel derby contro la Virtus Pratola. La classifica: comanda il Flacco Porto 62, 59 Casal Bordino insieme a Ortona, 58 Val di Sangro, 45 Sulmona, Villa 2015 e Real Tre Ciminiere insieme al Bucchianico, 41 Casolana, 40 Passo Cordone, 39 Fossa Cesia, 38 Piazzano, 38 Raiano, 37 Castiglione, Pratola 33 insieme alla Fater Angelini Abruzzo, 31 Sport Lancerano, retrocesso ormai il Palombara a quota 14. Allora Alessandro, partirei dal Real Tre Ciminiere. Come abbiamo già detto, condividete il campo con loro, quindi sicuramente avrete dei rapporti. Sì. Non so se sono ottimi, comunque sono sempre conoscete l'ambiente. È una squadra che viene da una dimensione molto piccola. L'anno scorso ha stradominato il campionato di prima, quest'anno sta facendo veramente una bella figura in promozione, appollaiata nella zona playoff che purtroppo penso sia preclusa dai più di 10 punti che li differenziano dalla seconda, però l'obiettivo era la salvezza, anche se magari più scettici dicevano che era difficile salvarsi, eppure stanno dimostrando che i mezzi ci sono. Guarda, il Tre Ciminiere a tre giornate dalla fine ha 14 punti dal gap che la separa per fare i playoff. Sono tre partite, ci sono 9 punti in palio, fin quando la matematica non decreterà la non possibilità per loro di andare ai playoff. A questo punto del campionato hanno il dovere di crederci, anche perché ieri hanno battuto il Casal Bordino, che a 4 giornate dalla fine era primo in classifica, quindi si giocava col Flacco Porto e con la Val di Sangro le possibilità di vincere direttamente il campionato, quindi ha tutti i mezzi per poter lottare fino alla fine. Un altro passo falso del Casal Bordino o dell'Ortona sicuramente potrebbe aprire a loro le porte dei playoff. È un risultato bello, sicuramente loro credo, non mi posso permettere di dirlo, penso che è un risultato al di sopra delle loro aspettative, pensavano a salvarsi, invece stanno sfiorando la zona playoff, questo va a loro, va dato atto, merito sicuramente di un ottimo campionato, di una buona struttura, come ho detto prima, di giocatori in grado di poter reggere questa categoria, di un buon allenatore che ha la capacità di tenere bene un gruppo e di sviluppare bene durante l'anno tutte le risorse che ha a disposizione, sfruttarle bene. Magari negli anni prossimi, successivi, anche quest'anno, visto che comunque il campionato non è finito, l'obiettivo del calcio alto è quello di arrivare, si spera, in promozione. Vorrei commentare questa lotta salvezza che è sempre più accesa, dal Castiglione Valfino a quota 37 fino alla Casolana a quota 41, sono 6 squadre per l'ultimo posto playout, è un campionato molto, molto difficile. Sì, il campionato lì in basso è abbastanza complesso. La Fader l'anno scorso ha vinto i playoff, quest'anno si ritrova chiaramente, sfortuna per loro, invischiata in questa lotta. La Castiglione Valfino, che fino a metà del girone di andata, ma anche oltre, era nelle primissime posizioni, ha avuto varie vicissitudini societarie, un po' di problemi e si ritrova lì sotto a lottare per la salvezza. La lotta è dura, però credo che il Castiglione Valfino abbia tutte le chance per potersi salvare direttamente evitando i playout. Rimangono Fossa Cesia e Piazzano, che sono zona Lanciano tutti e due. Sono squadre molto, possiamo dire, economicamente molto forti. Soprattutto il Piazzano. Sì, però a testa ha già un'altra squadra, insomma in quella zona ci sono tante risorse economiche, C'è un disperdio di energie, secondo me, però chiaramente poi, come ben sappiamo noi, ogni città, ogni paese ha la sua storia, il suo percorso storico che porta ad avere queste situazioni. Io faccio tutto in bocca al lupo possibile a Castiglione Valfino, abbiamo tanti amici lì, condividiamo con loro gran parte delle trasferte nel nostro settore giovanile. I raggruppamenti dei più piccoli spesso si fanno a Castiglione, alcune volte noi, qui ad Atria, al centro turistico, quindi siamo in stretto contatto con questa società, gli auguriamo di salvarsi ormai a tre giornate alla fine in maniera diretta, evitando i playout. Ora io passerei appunto a roba nostrana, passo dalla prima categoria al girone E, leggo i risultati e poi facciamo un grande commento sulla categoria. Allora, Castellammare, Pescarmonte, Vissimon Silvano 2-1, San Donato, Real Villa Carmine 1-3, Torre Vecchia, Cerratina 1-2, stesso risultato tra Verlenge e Casoli 2-1, tra Borgo Santa Maria e Calcio Atri 2-4 per l'Edicese sul campo della Pennese. Il derby con il Sibilo vince l'Atria per 1-3, Villa Bozza, Montefino, San Giovanni Tatino 0-1. Precedentemente la classifica comanda il Borgo 61, 57 per l'Atria, 50 Edicese Silvio, 47 Vissimon Silvano, 43 Calcio Atri, 41 Real Villa Carmine, 39 Verlenge, 34 Casoli, 33 San Giovanni Tatino, 32 San Donato, 25 per Castellammare e Pennese, 23 per il Villa Bozza, 16 per il Cerratina, 7 per il Torre Vecchia. Allora, essendo il Torre Vecchia ormai possiamo dire così condannato, anche se dovesse magari superare il Cerratina, i punti che li distanziano dalla zona playout, dall'ultima posizione playout, magari li potrà condannare, però ovviamente i giochi non sono, fino a quando non è matematico. Stessa cosa, stessa situazione per voi che siete lì a 4 punti dalla zona playoff, ve la giocherete fino alla fine, mancano 4 partite, ogni partita sarà una finale. Ma abbiamo due ordini di problemi, allora, anzi ne abbiamo tre. Il primo è che non abbiamo l'esigenza di arrivare in maniera indifferibile, arrivare ai playoff, perché per noi sono diventati un obiettivo nel corso della stagione, quando abbiamo visto che c'erano delle possibilità e la crescita dei nostri ragazzi è stata talmente elevata, abbiamo fatto in questo girone di ritorno più punti rispetto al girone di andata. Abbiamo vinto quelle partite che nel girone di andata abbiamo perso. Chiaro che poi, come si dice, la coperta è corta, dove abbiamo peccato un po', ma adesso ti spiegherò meglio qual è il mio pensiero su questo. Stavo dicendo, abbiamo tre ordini di obiettivi. Il primo è quello di magari centrare i playoff, ma se non ci riusciamo, bene. Il secondo è quello di raggiungere il Montesilvano, che è a 4 punti sopra di noi, ma soprattutto dobbiamo evitare che ci siano i più di 10 punti di differenza tra la seconda e la quinta, che in questo frangente però ne sono 14, quindi sono tanti. Ci sono gli scontri diretti, la matematica, come diceva Mr. Bizzarri prima, non ci condanna, quindi abbiamo l'obbligo di lottare fino alla fine. Non saranno 9 finali, ma saranno 9 partite importanti. 4 partite importanti, 12 punti a disposizione, partite nelle quali daremo il massimo di noi stessi, come sempre abbiamo fatto, con alti e bassi. Vedremo poi alla fine se riusciremo a centrare l'obiettivo, altrimenti comunque sin da oggi possiamo dire di essere soddisfattissimi del campionato svolto. Siamo riusciti a far emergere dei ragazzi. Anche Adriani, quindi siamo. Maggior ragione. Guarda, te lo dico proprio in maniera chiara. La nostra grande vittoria è stata quella a dicembre di aver visto due ragazzi di Atri che stavano in promozione scegliere noi come società per tornare a giocare ad Atri. Quella è stata la nostra vittoria di quest'anno. Noi da lì dobbiamo ripartire, perché il nostro obiettivo è quello di creare una squadra competitiva di giovani. Abbiamo il settore giovanile che sta sfornando piccoli campioni, siamo in, diciamo così, in fase di lancio, c'è molto ancora da lavorare, ma l'obiettivo è avere una squadra di gente di Atri. Ancora abbiamo bisogno di gente di esperienza che possa far crescere loro in maniera pulita, in maniera tranquilla, No, ne abbiamo avuto, abbiamo avuto bisogno quest'anno, ne avremo bisogno anche l'anno prossimo. Questo processo è un processo lungo, ci vuole molta pazienza, ma sicuramente arriveremo a portare questi ragazzi, o chi di loro vorrà rimanere con noi o potrà rimanere con noi, perché noi comunque ci auguriamo che il percorso di un settore giovanile possa dare la possibilità a un ragazzo di andare su lidi superiori, maggiori, diversi. Quindi noi abbiamo questo, chi vorrà e chi rimarrà con noi dovrà condividere, vorrà, se vorrà condividere con noi, il percorso di crescita, creando negli anni quella sorta di attaccamento, di partecipazione, di appartenenza, che sono il valore aggiunto che noi abbiamo e che stiamo cercando di creare. Noi da parecchio tempo lavoriamo su questo aspetto. Noi non siamo, diciamo così, una società vecchia, siamo una società giovanissima, siamo neonati, però sono bambini piccoli che cercano di tenere il passo, cercano di crescere. Stanno comunque facendo bellissime cose, quindi. Sì, guarda, non dico io, chi si loda si imbroda, non ho mai detto che stiamo facendo bene, ho detto che stiamo seguendo un percorso che per il momento sta portando dei frutti, che è quello di far crescere i ragazzi, ben figurare nel campionato di categoria. L'obiettivo è quello di arrivare nelle categorie superiori perché? Per due ordini di motivi. Il primo, per una questione di orgoglio, di appartenenza e di crescita, e il secondo, per dare la possibilità ai ragazzi che vengono al nostro settore giovanile di poter calcare direttamente, senza andare a cercare esperienze esterne, di calcare direttamente nella propria città dei campi di promozione barra eccellenza. Questo è chiaramente l'obiettivo finale, facendolo, come detto, un po' alla volta, passo per passo. Perché? Perché le risorse sono quelle che sono, ossia poche. Noi abbiamo tante risorse umane, che sono i nostri dirigenti, i nostri allenatori, i nostri educatori, i nostri tifosi. Da lì dobbiamo ripartire volta per volta, giorno per giorno, per costruire un grosso gruppo. Ti dicevo che eravamo neonati, e noi ci abbiamo 2 anni. Dopo, noi nasciamo dalla fusione di 3 società, la United BDR Atri, la Virtus Atria e la città di Atri. A fusione di 2 settori giovanili con una prima squadra, e questo è successo nel luglio 2016, quindi ancora non facciamo neanche 2 anni, siamo proprio dei bambini piccoli piccoli, e abbiamo l'obiettivo di crescere ancora, abbiamo l'obiettivo di crescere e aggregare tutte le forze calcistiche che ci sono ad Atri, perché per tanti ordini di motivi. Il principale è che è la gente, l'atriano, ma anche tu, anche lui, anche qualsiasi altra persona che si interessi un po' di sport e di calcio, la prima domanda che si fa è: ma perché ci sono 2 squadre? Questa è la domanda che volevo riservarti nel finale. Va bene, perché ci sono 2 squadre? Io rispondo a tutti: il perché ci sono 2 squadre non è importante. Perché sennò significa andare a stanare delle cose. Non ci interessa il perché ci sono 2 squadre. Ci sono. Lavoriamo insieme per cercare di far sì che fra qualche anno, quando ci saranno maturi i tempi, anche oggi, anche fra due giorni, quando saranno maturi i tempi, per averne una forte e competitiva. Perché questo vuole la gente, questo vogliamo noi. Con calma, senza tornare indietro, guardiamo solo avanti, perché tornare indietro significa tutto, e non mi va neanche qua di stare a dire il come, il perché, non fa niente, andiamo avanti. L'obiettivo nostro è quello di tutta la nostra società, è quello di avere nel futuro, il più prossimo possibile, un gruppo unico, una squadra unica, un settore giovanile unico. Magari forze economiche congiunte, ma che possono sicuramente dare a tutto il panorama triano. E questo lo dico personalmente, perché io credo che è questo quello che vuole la gente. E noi, se interpretiamo questo, se siamo bravi, se tutti siamo bravi a interpretare questo, faremo del bene. io sono il primo a mettermi a disposizione, non ne faccio una questione di carica o di nome, siamo lì, siamo a disposizione della collettività come abbiamo fatto fino adesso, come faremo nel futuro, quindi noi siamo a disposizione. Sì, questo è lo stesso pensiero che ha avuto Giampiero Reitano, vostro ospite, la prima puntata di questa trasmissione. Lo stesso lui ha detto che magari in futuro una congiunzione di queste forze, sia economiche che dal punto di vista della società, sarà sicuramente fondamentale per risollevare le sorti di Atri, che negli ultimi anni, lo possiamo dire chiaramente, ha avuto degli anni di buio dopo un passato molto glorioso tra l'eccellenza, campionati di promozione vinti, e quindi per passare questo momento magari anche una congiunzione di forze è ideale come sviluppo per il futuro. Sì, il progetto nostro da quando siamo nati, da quando ci siamo fusi nel 2016, era e attualmente è questo. Dal 2016 nel nostro programma dal 2016 c'è questo: unire le forze calcistiche di Atri. Lo abbiamo fatto con le tre società, lo continueremo a fare con tutte le altre società. Guarda, non ti nego che secondo me sarebbe però questo adesso parlo, diciamo così, a titolo personale, senza aver condiviso questa mia idea ancora in società, però secondo me sarebbe anche da coinvolgere in un'eventuale unione anche le altre ciminiere, ma non perché per motivazioni particolari, per creare veramente una forza, magari partendo proprio dalle altre ciminiere, con i dirigenti abbiamo un ottimo rapporto, con tutte le altre esperienze. Queste sono mie idee che svilupperò con la società, però il progetto della società è quello di unire, lo è dal 2016, noi andiamo alla ricerca di unione di intenti per lasciare a chi verrà dopo di me, perché il calcio è fatto di strutture. Le società devono strutturarsi, noi ci stiamo cercando di strutturare in maniera molto regolare, e chi verrà dopo di me, perché io non devo rimanere il presidente della SD Calcio Atri per 20 anni, per 10 anni, io devo fare il meglio possibile, creare una struttura in maniera tale che chi verrà dopo di me dovrà solo gestirla. Chi sarà il nuovo direttore generale? Chi sarà il nuovo allenatore? Chi sarà il nuovo direttore sportivo? Chi sarà membro del consiglio direttivo? Avrà un organigramma, una struttura da seguire. Le persone fanno le cose, ma la struttura agevola loro il lavoro. Quindi se noi riusciamo a costruire una struttura che, al di là di Alessandro Italiani, al di là del direttore generale, il nostro direttore generale che è Massimo Assogna, chiunque vada possa gestire queste cose e metterle a disposizione, questa struttura, della comunità. Questo è l'obiettivo, cioè creare una cosa che vada bene per tutti, che sia pulita, seria, scevra da ogni contesto, e chi va lì può gestire queste cose sia a livello economico che a livello tecnico. Sicuramente Alessandro, speriamo per tutti gli atriani, sportivi atriani, sperano in un qualcosa, magari anche a breve tempo, un qualcosa di concreto. Ce la metteremo tutta. Allora io parlerei del campo, tornerei a parlare del campo. Avete detto che ce la mettete tutta, ce l'avete messa tutta fino ad adesso. Le partite, le ultime due partite specialmente, lo dimostrano. Avete vinto con il Silvi, il Silvi veniva da 10 vittorie consecutive, quindi era una delle corazzate, addirittura prima della sconfitta contro voi era una delle candidate alla vittoria finale del campionato. Avete, diciamo, ridimensionato questa squadra, volevate ridimensionare anche il Borgo, siete andati ad un passo dal colpaccio, in vantaggio con Cantona nel primo tempo, vi hanno pareggiato subito, poi all'80esimo è arrivata la beffa del 2-1, ma comunque questo dimostra che il calcio Atri anche nel campo e non solo dal punto di vista societario c'è. Sì, abbiamo fatto, come dicevi tu, delle belle prestazioni, abbiamo battuto il Silvi e poi siamo andati a Borgo a giocarcela, lo dicono le cronache, lo dicono anche gli stessi sportivi, anche la stessa pagina Facebook della SD Borgo Santa Maria, dove abbiamo visto, ci hanno fatto i complimenti. Però ho visto devo dire con molta sincerità che al termine della partita i volti dei giocatori del Borgo, dei dirigenti del Borgo, erano soddisfatti, sì, ma tirati, perché avevano veramente scampato un pericolo, hanno veramente scampato. Io ho parlato col presidente, al quale ho fatto i complimenti, dicendo: secondo me, con la vittoria di oggi, voi avete messo una vera ipoteca sul campionato, perché siete riusciti a rimanere a 4 punti. E loro mi dicono: ma io dobbiamo giocare ancora col Silvio e con l'Atria. Sì, ma avete 4 punti di vantaggio, il Silvio lo affronterete in un momento del campionato dove, a mio modo di vedere, stante anche la classifica, il Silvi sarà blindato in zona playoff e blindato anche come posizione. Però magari bisogna avere anche i punti di svantaggio che avrà dall'Atria. Quindi, secondo, dal mio punto di vista, il Silvi fino alla fine, come la stessa Licese, il Monsilvano, come anche voi, dovranno giocare 4 finali tentando di vincerle tutte, perché la classifica, le prime due stanno volando. Perdere altri punti significa perdere anche la possibilità dei playoff, probabilmente. Ma anche perché l'Atria ha 7 punti dalla terza, quindi guadagnare 3 punti... Sì, tutto, no, hai ragione perfettamente. No, dicevo soltanto che il Borgo comunque ha messo un'ipoteca sul campionato. Sì, quello sicuramente, ecco, ha affrontato una delle squadre più ostiche. Hanno avuto la paura di perdere quando noi siamo andati in vantaggio. Devo dire la sincera verità, c'è stato un episodio che ha condizionato la partita, l'infortunio del nostro portiere a metà del primo tempo. Sì, proprio al momento del gol. Sì, perché la menomazione che ha subito, il colpo alla testa, comunque ha rischiato di farlo uscire dalla partita. Lui al termine della partita, ci ho parlato, era abbastanza sereno, ma era stanco, appannato nel viso e negli occhi, non vedeva da un occhio. Gli abbiamo consigliato pure di fare un check in ospedale, è risultato tutto ok. Però comunque ha subito quel trauma che, guarda caso, nel gol del pareggio c'è stato, diciamo, tra virgolette, una uscita non felice. Si è scontrato con un nostro giocatore, con un loro giocatore, comunque un'uscita non felice che ha permesso, che ha aggravato comunque anche la sua condizione, che ha aggravato la condizione e ha permesso il gol al Borgo. Sul secondo gol, all'80esimo, è stato proprio lui a dire: la palla è arrivata, infatti l'immagine, la palla è arrivata, l'avevo io, ho avuto timore del contatto e ho smanacciato il pallone contro il petto dell'avversario. Ma questo magari dagli occhi degli osservanti, ero in tribuna per commentare la partita, questo è stato un dettaglio che è sfuggito. Sembrava addirittura che l'attaccante avesse fosse andato al tapin. Lo dicono anche i giocatori del Borgo. Sì. Poi avviene, mezzo al campo si vede. Esatto, è stato il nostro portiere in anticipo sulla palla, non è riuscito a bloccarla, l'ha smanacciata e l'ha sbuttata contro il petto e poi le gambe del giocatore avversario, che ha segnato un gol, voluto dal Borgo, una bella azione, rocambolesco per come è arrivato, negativo per noi perché 2 episodi ci hanno punito dopo aver fatto una bella prestazione. Probabilmente, devo dire, non del vero, il Borgo ha qualcosa in più a livello di rosa. Noi hanno fatto 3 sostituzioni nel secondo tempo, 3 forze fresche, hanno messo in campo, hanno tolto Iommarini, che ha fatto sportellate con Di Sante per tutta la partita, alla fine l'hanno levato perché non riusciva a sfondare in quella direzione, hanno messo più gamba, hanno messo Viscella, operatore del 2-1, esatto, più gamba, però hanno messo forze fresche al pari degli altri. Noi quest'anno, per scelta, avevamo una rosa competitiva forte, che sicuramente l'anno prossimo dovrà essere puntellato in alcuni aspetti per cercare di migliorare, ma l'obiettivo non era il loro. Noi, loro avevano un obiettivo: playoff e magari vincere, come lo ha l'Atria, che ha quell'obiettivo di vincere, no? Rachini, Forcella, Novello, Bardi, Ragni, non so, voglio dire, non è Sorricchio, che è arrivato da poco. Sorricchio voluto, insomma, più mi dimentico gli altri, ti dico pure dimentico una persona che per me è uno dei migliori giocatori di Atri in questo momento, dell'Atria, il migliore giocatore dell'Atria, che è Feliciani. Sì. Poi c'è Carpegno, ce ne sono diversi altri. Quindi una squadra, il Borgo e l'Atria, nate insieme anche al Silvi. Ma guarda, ti devo dire la sincera verità, il Silvi all'inizio del campionato aveva avuto grosse difficoltà. Vaccaro è arrivato a settembre, è arrivato perché ha litigato col Flaccoporto, sì. Cioè non è stata una squadra costruita per, ma si è ritrovata in quelle condizioni, magari senza Vaccaro questa squadra in Silvi fortissima, con giocatori discesi. Però sembra 27 gol stagionali. Se non arrivava, se non litigava col a settembre, tu non trovi un bomber di quelle dimensioni a settembre. Se non litigava col Flaccoporto, tu magari non l'avevi. Quindi il Borgo e l'Atria nate, costruite per vincere. Il Silvi si è ritrovato, tant'è che dopo alla lunga l'ha pagato questa situazione. Ha pagato la rincorsa, alla fine l'ha pagata. Sì, la prima sconfitta arrivata dopo 10 partite già, lo so, però non puoi ha già ridimensionato tutto, quindi perché venivi da una partenza iniziale ad handicap, perché non eri ancora pronto per affrontare quella cosa. Quindi chi costruisce invece da luglio questa squadra, a settembre già è pronto e non perde quei punti iniziali. Noi abbiamo costruito una squadra sempre a luglio e ad agosto, ma con 11, 12, 13 elementi nuovi completamente nuove. Sapevamo benissimo che l'obiettivo era quello di ben figurare, migliorare la posizione dell'anno precedente, magari poi se qualcuno davanti falliva, sapevamo dall'inizio che Atria, Borgo, Elicese, Silvi, e noi pensavamo anche il San Donato, sì. Il San Donato. Fino a... Ma anche per la seconda e terza partita del ritorno, anche per la storia delle ultime due anni. Lo stesso Verlengia, poi erano le squadre che si giocavano il campionato, no, e i playoff. E noi eravamo subito a ridosso. Quando abbiamo visto il San Donato mollare, abbiamo iniziato a crederci. Poi invece c'è stato anche la Vis Montesilvano che ha preso il posto del San Donato. E quindi la realtà delle cose è che c'erano delle forze, e ci sono delle forze superiori alle nostre, per le quali va bene così, tanto di cappello. La matematica non ci condanna, lo terremo fino alla fine, ma l'obiettivo nostro è... Sicuramente c'è una base su cui ripartire. Assolutamente, quindi. Sì. Allora io parlerei anche delle altre partite del girone. L'altro derby contro il Silvi, l'Atria è riuscito a vincere 3-1, vincendo questo scontro in rimonta come lo stesso Borgo, magari ha dato via alla fuga definitiva di queste due squadre che lotteranno fino alla fine per la vittoria del campionato. Eh sì, come dici tu, l'Atria veramente vinto una partita difficile per due ordini di motivi, perché giocavano a Silvi, il Silvi veniva dalla sconfitta con noi, una sconfitta per loro bruciante, ed erano carichi. Poi c'era il fattore campo. Ricordiamo che il Silvia aveva il campo non agibile per le tribune, ma tante la foga, tanto l'entusiasmo, tanto la forza di quei tifosi che sono riusciti a entrare e vedere la partita e tifare. Quindi c'era tutto contro, l'Atria è riuscito a vincere. È riuscito a vincere con la forza dei singoli, con Forcella, e poi nella vita ci vuole pure fortuna, perché se Vaccaro, tanto elogiato anche da te, ma giustamente per i gol che ha fatto, avesse realizzato il secondo rigore. Rigore e vai sul 2-0 nel secondo tempo, già nel secondo tempo, sai, la partita cambia. In prima categoria questi equilibri tra squadre forti vengono un po' messi da parte da questi episodi. Vaccaro non fa il gol, il 2-0, però l'Atria è stata forte a pareggiare e vincere. Attenzione, sì, anche perché il gol di Novello, il 3-1, è arrivato poi in contropiede al finale. Sì, il 3-1 era un contropiede, vabbè, se la situazione era di 2-2, sicuramente quegli spazi per il gol del 3-1 magari non sarebbero stati. Ma l'Atria è veramente stata brava. Ha un Forcella in Gabriele in stato di grazia. Conosco bene Gabriele perché è stato con noi l'anno scorso. Un ottimo giocatore, piedi buoni. È veramente in stato di grazia, non sopra la riga, è veramente in stato di grazia. Trasforma in gol tutto quello che tocca, benissimo. Sono contento per lui. Giuseppe Rachini, che non ha bisogno di presentazioni, quindi penso che... Tanti giocatori forti, veramente forti. Ti dico, alcuni di questi alcuni di questi fanno comunque la differenza, e col Silvi una partita delicata l'hanno fatta, come credo che potranno farla con una partita col Borgo. Domenica ci sta Adria Borgo, che è tutta da vedere, e lì giocheranno il campionato. E se dovesse perdere l'Adria, perde comunque con una squadra forte, il Borgo, che ha altrettanti giocatori fortissimi. Sicuramente. Poi vorrei parlare anche delle due società, perché c'è stata una rivalità, possiamo dirla, un pizzico di rivalità tra Adria e Calcio Atri. Però magari soprattutto in queste settimane, che il Calcio Adriano si deve stringere appunto per il cordoglio da dare alla famiglia di Mattucci, magari anche da questa rivalità sapere che una squadra di Atri vince onorando appunto questa mancanza avuta fa sempre piacere, nonostante la rivalità. Sì, guarda, io credo che le occasioni in questo caso possono far riflettere le persone. Noi avevamo già, come ho detto prima, già abbiamo nell'animo quello di far crescere il calcio ad Atri e di riportare il calcio ad Atri in maniera forte e ricreare. Non c'è rivalità, ti dico, non c'è rivalità, se non quella che può esserci sul campo. Tra le due società non c'è rivalità. Noi abbiamo una società, un obiettivo, dei progetti e dei programmi. Se riusciamo a far confluire le cose, bene, se no andiamo avanti. Non abbiamo di questi problemi. A livello calcistico stai nella stessa categoria, hai i giocatori amici che si conoscono, c'è lo sfottò, c'è l'agonismo, quindi... ma finisce lì. Noi abbiamo vinto il derby, abbiamo esultato, va bene, ma noi abbiamo sbeffeggiato gli altri, perché comunque sono concittadini, sono persone che conosciamo tutti i giorni. Non c'è la rivalità, la sana rivalità calcistica, che è giusto che ci sia, anche perché sennò il pepe del calcio finisce. Per quanto riguarda invece noi, abbiamo due società diverse: noi abbiamo un settore giovanile, abbiamo degli educatori, abbiamo 20 soci, abbiamo un consiglio direttivo, un direttore generale, due responsabili, abbiamo una struttura completamente diversa. Loro hanno una società e concentrano tutti i loro sforzi sulla prima squadra, va bene, cioè il loro obiettivo è quello, lo stanno raggiungendo, mi auguro per loro che raggiungano tutti gli obiettivi che vogliono raggiungere. Per noi sono altri al momento i nostri obiettivi. Devo ricordare, approfitto del fatto di questa opportunità che ci avete dato, che noi stiamo organizzando per il maggio e per giugno tre giornate per il torneo Zardo, la sesta edizione del torneo Zardo, un torneo di calcio giovanile riservato alle categorie piccoli amici, primi calci e pulcini, in tre giornate, un sabato, domenica e poi l'ultima giornata il 10 giugno, le prime due nell'ultima decade di maggio, e poi il 10 giugno tre giornate di calcio riservate appunto a questi piccoli ragazzi, che per noi sono la più grande soddisfazione. Cioè noi vediamo crescere questi ragazzi ad Atri con la maglia rossoverde, con il fascino del calcio, e cerchiamo di riportare al campo le famiglie, cercando di far capire loro che non solo il calcio è un momento di aggregazione, ma anche un momento sociale ed educativo importante in questo momento storico in cui viviamo, dove veramente far fare sport ai figli è diventato qualcosa di difficile, e noi cerchiamo di dare, investendo tanto anche a livello economico, perché noi investiamo tanto in educatori e strutture per permettere di dare a questi ragazzi delle cose importanti. Abbiamo fatto il torneo Befana Cup, primo torneo Befana Cup ad Atri, categoria giovanissimi, dove 8 squadre provenienti da tutta Italia, e sono sforzi immane. Abbiamo portato qui 6 squadre a dormire, hanno dormito qui per 3 giorni. La società, veramente i dirigenti tutti si sono sforzati personalmente per gestire organizzativamente questa cosa. Quindi noi abbiamo, ti ripeto, questa forza che è quella degli uomini che amano questo sport e hanno voglia di fare bene, quindi. Hanno voglia di fare bene, sicuramente, ti ripeto, tutte queste forze le metteremo a disposizione di altri, proprio di altri, cercando di migliorare e crescere ancora. Da questa compattezza societaria vorrei parlare anche dei progetti futuri. Abbiamo parlato in parte dei progetti futuri del calcio Atri, non so, in allora, linea di massima quali saranno questi? Prossimo anno l'obiettivo è la Champions. Vabbè, si scherza perché sembro troppo serio poi quando parlo. L'obiettivo è quello di fare meglio di quest'anno, quindi se noi quest'anno non arrivassimo ai playoff, l'obiettivo saranno i playoff. Saranno i playoff, perché noi facciamo un gradino all'anno, un gradino alla volta. Non ti dico se arriviamo ai playoff poi sarà quello di vincere il campionato, no, sarà quello comunque di ben figurare, ma al di là di tutto quello è l'obiettivo tecnico. L'obiettivo sportivo calcistico è quello di far crescere i nostri ragazzi, cioè dare la possibilità a chi fa quest'anno gli allievi, tant'è che ve lo dico come anteprima, faremo di tutto per creare l'anno prossimo anche la squadra juniores e fare giocare questi ragazzi in un campionato importante. Questa juniores sarà il trade union tra gli allievi e la prima squadra, per permettere a chi non è pronto per giocare in prima squadra comunque di svolgere un campionato. A chi invece fa un ruolo intermedio, è pronto ma non è pronto, deve maturare, comunque la domenica o il sabato di fare i 90 minuti. Tutti quelli che sono pronti vanno in prima squadra. Quindi questo è il progetto di crescita, creare un ulteriore tassello di forza nel nostro settore giovanile con la juniores e implementare la presenza dei nostri ragazzi nella prima squadra. E chiaramente servirà ancora, come ho detto prima, la forza e l'ausilio di qualche forza esperta, magari non di altri. Altro obiettivo è quello di continuare a far rientrare, qualora lo volessero, qualora ci siano le condizioni, tutti i ragazzi che sono fuori, che giocano in promozione, ma che comunque hanno voglia di giocare ad Atri, di farli tornare a giocare con noi, col calcio Atri. Quindi sono i tre obiettivi, quindi tornare a far giocare ad Atri i ragazzi di Atri, crescere col settore giovanile e poi il terzo obiettivo, fare del bene, cioè fare meglio, se arriviamo ai playoff, rifare i playoff. Se ci arriviamo quest'anno poi ci rigiochiamo, attenzione, non è che dico... Sì, una volta che ci arriva... Se noi poi senza pressioni, ovviamente, assolutamente senza pressioni, noi abbiamo in rosa delle persone che possono, una squadra che come visto può giocare a testa alta con tutte, assolutamente sì, anche perché una difesa forse una delle migliori del campionato, insieme anche a un centrocampo molto competitivo. Appunto, volevo partire parlando dell'attacco, vorrei parlare anche di Ragnoli. L'avete rimesso in sesto, possiamo dire, in questi due anni, dopo lui veniva da un lungo infortunio, è anche tuo amico. Sì, sì, Gianluca. Tuo collega, sì, sì, tuo sì. Collega, quindi diciamo magari anche questa amicizia ha fatto sì che il Ragnoli dal punto di vista calcistico ripartisse nel migliore dei modi. Guarda, Gianluca è un bravissimo ragazzo, è cresciuto tantissimo in questi due anni, non nego che lui può e deve fare ancora come crescita, cioè lui ha delle potenzialità ancora inesplose e deve scavare dentro se stesso, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano, perché ha delle potenzialità enormi. Lui lavora, si impegna, in questa seconda fase del campionato si è impegnato tantissimo, ma ha ancora tanto per crescere. Ieri a Borgo ha tirato, ha ciccato un'occasione, mentre nell'altra è stato sfortunato, però in quel frangente ha dimostrato tutta la sua forza. Ha preso palla, ha sradicato un difensore, ha saltato un altro, poi ha cercato anche di saltare il portiere, vabbè, è andata come è andata. Ma lui ha delle potenzialità enormi, enormi. Ti dico, sarà difficile tenerlo con noi l'anno prossimo. sarà veramente difficile, conterà poco l'amicizia o il rapporto. Sì, anche perché anche quest'anno è stato difficile, lo possiamo dire, l'anno prossimo a maggior ragione sarà ancora di più. Sarà difficile tenerlo con noi, sarà difficile perché avrà delle, delle richieste, avrà altre squadre che lo cercheranno, per noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che dopo due anni, come dici tu, da un infortunio, dopo la rottura della caviglia, lui è tornato con noi a fare, a fare vetrine, a farsi vedere nel calcio, dal calcio regionale che conta. Vedremo come andranno le cose, abbiamo degli obiettivi, abbiamo delle priorità, vedremo come gestire la situazione, anche perché comunque abbiamo un budget da rispettare, abbiamo una serie di processi da portare avanti, un programma ancora da definire, mancano pochi dettagli, però abbiamo il direttore generale Massimo Assogna che insieme al direttore sportivo Roberto Martella e al responsabile del settore giovanile Michelangelo Castelli, un programma tecnico che stanno redigendo e a pochi giorni sarà portata all'attenzione del consiglio direttivo per sviluppare il progetto, nel quale ci sarà pure appunto la visione, la prospettica della prima squadra per l'anno prossimo. Allora, siamo in chiusura, io visto l'unione di questa dell'Atri calcistica dopo questo brutto episodio che è successo la scorsa settimana, vorrei parlare anche del calcio a 5. Non so se hai sentito la notizia. Com'è? Dell'Atria Team che è andata avanti nei playoff del campionato C2, è riuscito a vincere all'ultimo respiro. Nell'intervista che ho fatto io stesso a Luca Angelozzi ha detto quella palla, perché lui ha fatto veramente un Eurogol da quasi metà campo, il pallone è finito sotto l'incrocio e lui ha detto magari è stato Giacomo a far entrare questa palla, perché mancavano, erano i tempi supplementari, dopo 70 minuti mancavano un minuto e mezzo, magari è stato anche questo. Ci piace pensare questo, ecco, bravissimo, ci piace pensare questo, è bellissima la frase che ha detto Luca. Ho visto il gol, complimenti a Luca, è stato un bellissimo gol realizzato a centrocampo, tirato, dobbiamo ricordare che se la partita finiva 1 pari loro erano fuori, sì. Non è che se andava ai rigori, loro erano fuori. Adesso gli aspetta un San Vincenzo Valle Roveto, il prossimo turno, che è la semifinale dei... La semifinale del girone, e poi esatto. Eventualmente ci saranno gli spareggi con l'altro girone, esatto. Dipende tutto da come, cosa succede. È una finale, ma che potrebbe rivelarsi una semifinale, insomma, sì, per accedere alla categoria superiore. Guarda, è una bellissima realtà. Conosco i dirigenti, conosco i giocatori, non dico niente, faccio un in bocca al lupo a loro. Ti ripeto, non dico niente perché non mi va di dire cose che non posso dire o che non sono autorizzato a dire. Faccio a loro i miei più vivi complimenti per quello che hanno fatto, perché è una società che si impegna, fatta di persone serie, con abnegazione, gente che crede, gente umile che sta lì al campo a portare tutte i sabati e le domeniche la squadra fuori, la squadra in casa, fanno dei sacrifici enormi tutti quanti, quindi hanno meritato questo accesso, soprattutto Luca, conosciuto, perché comunque lui la domenica poi quando non gioca viene a tifare calcio Atri, è un bravissimo ragazzo, magari un giorno vediamo se lo riesco a convertire al calcio a 11. Vedremo. Sarà sicuramente una scelta difficile per lui. Scherzo. Concretizzandola, anche perché lui viene da un campionato di Serie B fino a dicembre, quindi con le sue qualità io sono... scherzavo, sì. Allora io ringrazio Alessandro Italiani, siamo davvero in chiusura, ringrazio il presidente del calcio Atri Alessandro Italiani per essere stato con noi. Io vi ringrazio voi per l'opportunità che mi avete concesso, che avete concesso alla nostra società, vi faccio un in bocca al lupo per il lavoro che fate, i complimenti per tutto quello che avete organizzato e vediamo l'anno prossimo, speriamo di rivederci. Allora vi do appuntamento a lunedì prossimo, ringrazio ancora nuovamente pure per i complimenti il presidente del calcio Alessandro Italiani. Appuntamento lunedì prossimo e buona serata. Radio Cerrano ha presentato Sportivamente Parlando, un programma ideato e condotto in studio da Federico Di Fabio.